Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ed è sempre un piacere ritrovare la nostra voce amica del presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi tocchiamo un argomento che è caro a tutti gli italiani, nel senso che insomma è una delle cose a cui non riusciamo a farne a meno, a parte forse i veneziani, ma gioco forza, cioè parliamo dell'automobile, perché siamo in un periodo di crisi dove poi anche, se vogliamo, le tasse vanno a finire lì, sulle spese della benzina, sull'automobile gravano parecchio, ma adesso oggi concentriamo l'attenzione su quelli che possono essere i problemi quando andiamo ad acquistare una macchina. Sì, Francesco, parliamo di un argomento molto caro a molte persone, visto l'entità dei numeri delle persone che si sono rivolte all'Adico per questo problema, e cioè si tratta esattamente di acquisto di auto usate in particolar modo, ma anche di nuove, perché abbiamo notato come nel 2014 abbiamo avuto un aumento del 22% di casi rispetto al 2013, ed esattamente ne abbiamo avuti 150 casi di persone che all'acquisto dell'auto si sono trovati con problemi di chilometri taroccati, motori non originali, costi che lievitano poi per sistemarla, soprattutto anche nei giorni, nelle settimane successive all'atto di vendita. Ecco, io ricordo di un servizio, credo delle Iene, se la mia memoria non mi inganna, proprio girato in Veneto, perché la parlata era decisamente veneta, dove questi concessionari di auto usate andavano chiaramente a limare i chilometri della macchina, no? E quindi vendevano una macchina che magari aveva 150.000 chilometri per una che ne aveva invece 80.000 o cose di questo genere. Esattamente, il problema dei chilometri taroccati quando si tratta di auto usate, dobbiamo dire che è uno dei fenomeni più frequenti che ci capita, soprattutto quando poi le persone hanno occasione di portare l'auto a fare un primo tagliando che non sia presso il concessionario dove l'hanno acquistato, e di fronte a quelli che sono gli occhi attenti di persone sicuramente esperte nel mestiere, si scopre sempre le amare sorprese, soprattutto quando poi le auto cominciano a manifestare dei problemi, e certamente la parcella del meccanico deve andare a spiegare il motivo per cui certi interventi diventano costosi. E quando parliamo di auto usate, sì, dobbiamo parlare di chilometri taroccati, però ricordiamoci che legato a questo fenomeno ci sono anche tanti altri problemi, che normalmente possono essere la catena di distribuzione, cambio automatico, l'usura delle gomme e dei freni, che sono normalmente i problemi più comuni. Ricordiamoci invece che per quanto riguarda le auto nuove, uno dei maggiori casi più frequenti che abbiamo trattato sono i ritardi sulle consegne, che normalmente fanno bestialire i consumatori, ma soprattutto hanno recato anche notevoli disagi, perché ci sono persone che hanno rottamato l'auto oppure se la sono fatta prestare o noleggiata nel frattempo di una consegna preventivata, e alla fine si sono trovate con l'auto che non arrivava, e quindi con tutti i problemi che possiamo immaginare. Sicuramente. Quindi molti casi che si rivolgono a voi, l'Adico cosa riesce a fare in questo caso? Beh, se parliamo di nuovo, parliamo di acquisto, normalmente qua la cosa è più semplice, perché abbiamo la garanzia di 2 anni, e di 2 anni siamo in riparo da tutto. Certamente però se parliamo di ritardo sulla consegna, qua normalmente bisogna verificare quello che c'è scritto sul contratto e procedere alla richiesta della restituzione della cifra. Bisogna dire che normalmente non ci sono delle penali che le persone pensano di avere diritto quando versano un'anticipazione, perché normalmente è una caparra, e nella caparra c'è scritto che entro un periodo deve essere consegnata l'auto, altrimenti restituita. Tanti invece credono che debbano esserci applicate delle penali che la raddoppiano, la triplicano, ma purtroppo il modo per far soldi non è questo. Mentre per le auto usate l'argomento è più complicato, perché normalmente, se la garanzia è normalmente di 1 anno, bisogna stare molto attenti quando si acquista un'auto usata, perché qua ci dovrebbe essere solamente la pignoleria del consumatore di fare in modo che nell'atto di acquisto venga dettagliata il più possibile quelle che sono le condizioni di acquisto dell'auto, e soprattutto quelle che sono anche le condizioni che vengono normalmente riportate su contratti di acquisto, perché se io scrivo vendo un'auto perfetta, pochissimi chilometri, gomme nuove, freni nuovi, appena tagliandata, carrozzeria perfetta, queste diventano delle condizioni di cui le persone, se riscontrano poi dei problemi, hanno il diritto a far valere la garanzia. Quindi importante quello che hai appena detto nel passaggio, insomma, dell'acquisto di una macchina usata, farsi scrivere bene le condizioni che, per cui l'abbiamo comprata e per cui l'abbiamo pagata quei soldi, e poi in qualche modo ci si può far rivalere se quello che ci è stato dichiarato non corrispondesse al vero. Certamente, non bisogna però pensare che il venditore d'auto, il concessionario, possa sostituirsi a quello che è un privato. Cioè, cosa vuol dire questo? Che se io compro un'auto usata presso un venditore, è chiaro che la garanzia in questo caso diventa il concessionario, io quindi ho diritto a rivalermi verso chi me l'ha venduta. Normalmente invece quando si acquista tra privati la faccenda si complica un pochino, quindi proprio per evitare che la vicenda poi possa presentare delle problematiche è proprio meglio essere molto esaustivi su quelle che sono delle condizioni di acquisto, perché poi se scopriamo che la cosa non è come c'è stata descritta, ecco, in questo caso possiamo anche invocare la truffa e quindi pensare anche di agire in altra sede e non più anche con i toni morbidi di quella che potrebbe essere una vera e propria truffa. Importante quindi avere ben chiaro, insomma, quello che vogliamo fare e prendere le giuste considerazioni del caso. Se ci sono dei problemi, una telefonata all'Adico, un passaggio presso gli uffici dell'Adico, credo che sia assolutamente utile anche per chiarificare eventuali problemi. Sì, certamente, noi siamo sempre qua a disposizione, i casi sono tantissimi, aumentati come detto del 22% rispetto al 2013, per cui certamente questo ci fa capire come anche in un periodo di crisi le persone probabilmente si stanno rivolgendo con più frequenza verso quello che è l'acquisto di un'auto usata rispetto a quello che è un acquisto dell'auto nuova, quindi ecco, molta attenzione e cercare di recuperare più materiale possibile, che anche le fotografie possono aiutare moltissimo. Ricordo quindi il sito dell'Adico, associazionedifesaconsumatori.it. Grazie al presidente Carlo Garofolini, tra un paio di giorni ci ritroviamo con un nuovo argomento. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.